peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo tre gruppi, tre musicisti e tre novità, diciamo, recenti. Direi che per lo più sono personaggi di secondo piano o di meno notorietà, questo si può dire, non di secondo piano dal punto di vista qualitativo, ma ci sono molti nomi che circolano per a livello internazionale, specialmente negli Stati Uniti, che pur avendo delle ottime qualità artistiche non vengono conosciuti come meritano. Come per esempio John O'Callaghan, francamente penso che sia sconosciuto ai più, è un musicista ormai, ha già una sessantina d'anni, quindi non è un ragazzo, che è cresciuto artisticamente, nato e cresciuto artisticamente in California. E poi ormai da qualche lustro si è trasferito a New York e ha lavorato moltissimo come sideman in serie innumerevoli di incisioni, di gruppi diversi, di formazioni e con qualche pubblicazione a proprio nome. Questo soprattutto dopo che è arrivato a New York e che ha avuto modo anche di presentare le proprie qualità. Come per esempio quest'ultimo lavoro, non è il primo lavoro che fa, tra l'altro è già da tempo che lo ascolto quando pubblica qualcosa, perché di solito è sempre piuttosto interessante, ha un suono, un modo di interpretare il proprio sassofono che è stimolante, decisamente accattivante, anche perlomeno per quanto mi riguarda. Ad esempio ci sono degli incontri, alcuni incontri che ha fatto anche con Noah Preminger, che hanno segnato un punto importante proprio nella qualità del suono che tutte e due esprimono. È abbastanza affine come linguaggio e come carattere a Noah Preminger. Ecco, ha presentato questo lavoro, Ancestral, si intitola, per un'etichetta Whirlwind Record, non è certamente famosa come etichetta, ed è una formazione interessante, proprio la ricerca di una sonorità interessante. Infatti a lui al contralto, John O'Callaghan al contralto, che viene accompagnato dalla chitarra di Ben Monder, che ancora una volta si conferma un talento creativo e interpretativo di primo livello, e poi due batteristi, questo è abbastanza curioso, due batteristi, ma due anziani batteristi, entrambi sono parte della storia del jazz, si tratta di Andrew Cyril e di Billy Hart, e sono tutte e due ultra ottantenni e quindi insomma danno anche una visione storica di questo modo di cercare il proprio drumming, però comunque dimostrano entrambi di avere una grande vitalità, una grande intenzione di continuare nella propria ricerca, nel proprio percorso artistico, pur avendo ormai un'età da pensione, direi decisamente. E un buon risultato, secondo me, questo di O'Callaghan, con questo Ancestral, dal quale ascolteremo tre brani. Thank you. Thank you. Questo era John O'Callaghan nell'ultimo lavoro, Ancestral, un quartetto decisamente interessante, oltre al suo sax contralto, la chitarra di Ben Monder, poi le due batterie di Andrew Cyril e Billy Hart. Passando a un altro, anzi direi quasi un intermezzo per la trasmissione di oggi, perché è un brano solo. Si tratta di una produzione recente di Odette Zur, un sassofonista tenore che è dell'area palestinese israeliana, che si è fatto notare qualche tempo fa come uno dei talenti emergenti in quelle terre, poi è emigrato ed è stato assunto da Manfred Eicher per produrre alcuni dischi per l'etichetta ECM e poi comunque si è trasferito sostanzialmente anche negli Stati Uniti, quindi Odette Zur è emigrato con tutta la famiglia in Brasile per fuggire dalla situazione della Palestina, di quello che sta accadendo, perché comunque al di là di tutto, di qualunque tipo o se di parte ebraica o palestinese, è un macello che veramente non ha nessun tipo di giustificazione. E Zur ha scritto questo brano dedicandolo al figlio, che mio figlio molto piccolo, che lui mentre guardava la televisione in Brasile, a casa sua, che era andato a trovare appunto la famiglia, e vedeva questi macelli in Palestina. È toccante, è decisamente un brano toccante ed è voluto, tra l'altro Zur ha anticipato questo brano, probabilmente nel giro di quest'anno, insomma nel 26 uscirà un intero CD, ma appunto questo brano ha voluto dedicarlo, farlo e pubblicarlo singolarmente per sottolineare questa dedica e questa riflessione. È un brano che inizia, intanto diciamo che Odette Zur inizialmente, io almeno l'avevo apprezzato per la sua ricerca e anche la sua capacità di cercare strade di congiunzione tra il linguaggio jazzistico e la cultura medio orientale, quindi con gli strumenti in medio orientale e la musica di quelle terre. E poi si era allontanato da questo, appunto incidendo per l'ECM, ma anche per altre cose negli Stati Uniti, per altre etichette. E qui è tornato, ha fondato una propria etichetta, Sky River Music si chiama, con la quale appunto pubblica questo primo brano. Ed ha una formazione che vede la presenza di Joe Martin al contrabbasso e Nashet Waits alla batteria, quindi due vecchi leoni della scena jazzistica. Poi a questo si aggiungono un chitarrista e un saranghi che vengono dalla cultura araba. Il brano inizia, si intitola Make a Sound, e inizia con una canzone. Lui per la prima volta canta in maniera insomma molto, molto approssimativa questo un tema, una sorta di ninna nanna di canzone per bambini, alla quale poi segue la parte rabbiosa del suo sassofono nell'insieme anche della formazione musicale. Quindi è questa tensione emotiva che è divisa tra tenerezza e rabbia. Ascoltiamo questo Make a Sound di Odette Zur. Take my hand and together we run to the flame. All these these beautiful colors will do it again. Yes, my dear. Can you feel it burning down the stars? Where does all the light go when it's near? When we need it the most, why does it disappear? Tell me how. Does anyone not belong here? Every child that is born, when it's born it is clear. There's a flag on the pole, but it's us that they fear. When they need us the most, that's when we disappear. Yes, my dear. Can you feel it beating in the ground? Where does all the love go? Is it playing a game and just waits to be found? Can you please make a sound? Just to make it too loud, all the sirens around. Make us easily startled, we gasp and we frown. And we'll call you naive if you think there's a way. There's no way, there's no way, there's no way to believe that a heart just like this one right here wants to live. Oh my dear, can you feel it racing in the dust? How can all this be just? What we do to ourselves because we cannot trust. You and me, we can run towards more than a flame. You and me, we're the same, we're the same. Isn't your child the love of your life, of the stars, of this beautiful light, of this very long night? Thank you. Questo era Odette Zur con Make a Sound, questo singolo uscito recentemente per la Sky River Music. E, passando ad un altro personaggio, il più sicuramente il più noto, che, di cui abbiamo parlato anche prima, Billy Hart, batterista, appunto anziano, già 86 anni, quindi come dire, ha una bella storia alle spalle, che continua negli ultimi anni, direi, nell'ultimo lustro perlomeno, ad avere una produzione veramente incredibile. Nel 25 ho contato che ci sono almeno 9 pubblicazioni dove o compare o è anche a suo nome, quindi veramente un'attività frenetica. Ma la cosa interessante è che alcune di queste cose sono decisamente di alto livello e anche con uno spirito innovativo. Direi che il colpo migliore l'ha fatto, tanto vabbè, diciamo la conoscenza di Mark Turner ormai parecchi anni fa, insieme a Ben Street, due musicisti che già da diversi anni collaborano con lui, hanno formato un trio con buoni risultati, indubbiamente, però abbastanza formali. Ma recentemente si è aggiunto a questa formazione la presenza di Ethan Iverson al pianoforte, e l'incontro tra Mark Turner col suo sax tenore, dal suono molto, molto elegante, molto raffinato, bello, profondo, e la musicalità, la preparazione anche tecnica, diciamo di alto profilo, anche classico, di Ethan Iverson, hanno veramente contribuito a creare una condizione decisamente fertile per la produzione di registrazioni di alto livello. Quindi Billy Hart tiene, diciamo, cuce questo rapporto, lo sostiene, lo sottolinea anche, consente di sottolineare l'aspetto più legato a una sorta di interpretazione di Thelonious Monk, oppure come dire, di recupero di un clima cool, con risultati in quest'ultimo lavoro, appunto multidirectional intitolato, che è di grande livello. L'etichetta discografica è Smoke Jazz Session Records. Ascoltiamo da questo bel disco un paio di composizioni, appunto, interpretate soprattutto, insomma, perlomeno dall'incontro tra Mark Turner e Ethan Iverson. Thank you. Thank you. Ecco, questo era Billy Hart, il quartetto di Billy Hart, multidirectional, con la presenza, oltre che Billy Hart alla batteria, e Ben Street al basso, Mark Turner al sax tenore e Ethan Iverson al pianoforte. E direi che questo è tutto, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, alla sezione Musica Playlist.